Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. La puntata di oggi è dedicata ai calcoli, a quelle piccole pietruzze che si possono formare nei nostri reni, ma prima diamo precedenza alla notizia che tutti noi abbiamo letto sui giornali, sentito e ascoltato per televisione, l'influenza suina. In linea con noi abbiamo il professor Ferruccio Fazio, sottosegretario di Stato con delega alla salute. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo in linea con noi naturalmente anche il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, a lei chiedo subito, come virologo, che cos'è l'influenza suina e che sintomi può dare? Ma è importante appunto dire che si tratta di un episodio comunque limitato geograficamente a tutt'oggi, ma è sotto sorveglianza delle autorità internazionali, di una forma di influenza che purtroppo ha le caratteristiche della vera influenza classica, cioè sì, febbre elevata con inizio brusco, dolori muscolari articolari, segni respiratori, che purtroppo ha un'origine dai suini, ma dalle informazioni a tutt'oggi ormai certe, questa si può diffondere uomo a uomo e quindi ha una caratteristica potenziale di creare un problema di futura pandemia. E in questo senso questo virus ha in qualche modo sorpassato l'influenza aviaria, che da anni ormai rappresenta un problema a livello veterinario, ma che per fortuna a tutt'oggi, pur avendo creato problemi nell'uomo, aveva ancora acquisito, anche se può essere. Il professor Pregliasco, è caduta la linea, ma al sottosegretario volevo chiedere, quando noi leggiamo sui giornali l'Italia è pronta, abbiamo a disposizione tutta una task force che si occupa, è assolutamente in contatto anche con gli altri paesi, a che cosa facciamo riferimento e possiamo comunque stare tranquilli, siamo in buone mani, i farmaci sono pronti? Fazio. Sono caduti tutti e due e intanto noi riprenderemo il collegamento quando sarà pronto. Se intanto volete fare delle telefonate, volete saperne di più, il nostro numero verde è già attivo, 824 0024, in attesa di riprendere il collegamento. Come sempre, i messaggi al 349 238 6666. In studio con me però abbiamo l'ospite del giorno che ci accompagnerà nel corso della trasmissione per parlare di calcoli, queste pietruzze, possiamo definirle così, che possono formarsi nei nostri reni, a volte rimangono lì buoni per anni senza dare segno di sé e vengono scoperti per caso durante un'ecografia eseguita per altri motivi. In altri casi invece decidono di muoversi e lì sono dolori, perché chi ha provato una colica renale sa bene che è molto doloroso. Insomma, è un'esperienza che non si dimentica più. Se volete parlare anche di questo con noi, potete già subito chiamare il nostro numero verde e intanto vi presento l'ospite che è in studio con me. È tornato a trovarci il professor Giorgio Battaglia, primario di nefrologia all'ospedale Santa Marta di Acireale. Professore. Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori. La domanda lo so che rischia di essere banale, ma viene spontaneo chiedersi come mai noi produciamo calcoli essendo fatti per oltre l'80% di acqua? Ma noi abbiamo un organo che si chiama il rene, è quello che ci dà la possibilità di vivere sulla terra e di non annegare. Infatti, come giustamente diceva, noi siamo formati dell'80% di acqua e per non annegare noi stessi c'è questo organo che è meglio di un farmacista, riesce a bilanciare acqua, sali, in modo che noi conserviamo l'acqua e i sali che ci permettono di sopravvivere, di far muovere il cuore, di far muovere il fegato. Per esempio, se questo rene non riesce a bilanciare il potassio e si aumenta la quota di potassio nel nostro sangue, il nostro cuore si ferma. È un poco l'evoluzione della nostra specie. Noi siamo sulla terra perché c'è il rene, perché sennò dovremmo vivere negli stagni, dovremmo vivere nell'acqua per poter stare bene. Un po' scomodino. Ma alcune persone, per una serie di ragioni e di cause che andremo poi a scoprire nel corso della nostra trasmissione, producono questi calcoli. A volte sono molto dolorosi, a volte rimangono lì senza dare segno di sé. Come mai? Nell'urina ci sono dei cristalli. Questi cristalli sono insieme nell'urina e nella preurina, insieme a delle sostanze che inibiscono l'aggregazione. Quando questo rapporto tra stimoli aggreganti e stimoli inibenti la concreazione di questi cristalli viene a mancare, si formano questi calcoli, che possono essere piccolissimi e possono addirittura raggiungere una pallina da golf. In questo caso sono dei calcoli che possono diventare dolorosi, ma diventano dolorosi soltanto quando prendono la via di uscita. Finché stanno dentro del rene, probabilmente danno soltanto un poco di pesantezza al fianco senza dare segno di sé. Invece quando cominciano a muoversi si ha la colica. Tutti ricordano, specialmente le donne, che però ne soffrono per molto meno degli uomini, ricordano più una colica renale del dolore del parto. Lei, professore, ha anticipato magari un sintomo, eventualmente si avverte una leggera pesantezza al fianco. Ci sono delle situazioni, delle condizioni che sono favorenti la formazione di questi calcoli. Le abbiamo raccolte ed evidenziate nella nostra scheda per aiutare chi ci ascolta da casa a capire se il problema di cui stiamo parlando potrebbe toccarlo più o meno da vicino. Bevi con regolarità o devi importelo perché a volte quasi ti dimentichi di farlo? Un'altra indicazione, ti sembra di urinare a sufficienza oppure di urinare poco? Quando fai pipì avverti bruciore, senso di pesantezza o hai l'impressione di non svuotare completamente la vescica? Ti è mai capitato di notare perdite di sangue nelle urine? Un'ultima cosa, tra i tuoi familiari c'è qualcuno che ha avuto una colica renale o più di una? Professor Battaglia, vedremo in modo approfondito che lo stile di vita, una certa predisposizione genetica, anche la familiarità giocano un ruolo importante da non sottovalutare. E noi oggi, col suo aiuto e quello di altri suoi colleghi che ci raggiungeranno nel corso della puntata, vogliamo essenzialmente dare buone e sane regole di prevenzione per ridurre il rischio di formare calcoli. Vogliamo dare anche dei suggerimenti mirati a chi ha scoperto per caso di avere un calcolo che non ha ancora dato dei segni di sé, affinché continui a comportarsi bene questo calcolo, che stia lì buono e fermo, ma abbiamo anche particolarmente a cuore chi ha già avuto una colica e quindi è potenzialmente a rischio nello svilupparne altre. Infatti i dati dicono che nei 10 anni che seguono ad un primo episodio di calcolosi, oltre il 50% dei pazienti andrà incontro almeno ad un nuovo episodio. Allora noi faremo di tutto per farvi rientrare nella percentuale buona, in quel 50% di coloro per i quali la colica resta un episodio doloroso ma isolato. Quindi, professore, avremo sicuramente da lavorare. Ma intanto iniziamo a vedere, ad occuparci della colica. Dicevamo, è un dolore che non si dimentica. Lei diceva anche le donne che hanno avuto un parto si ricordano di più il dolore della colica di quella del parto. Sono sempre tutte così dolorose però le coliche? Sono dolorose, dicevo, quando prendono la via d'uscita, quando vanno verso l'uretere e la peristalsi, che cerca di eliminare il calcolo, dà questo dolore a colica, dà micro o macro ematuria, cioè sangue nelle urine, perché viene graffiato il condotto che porta l'urina dal rene verso la vescica. Ma quello che volevo dire è che sta un poco nella storia dell'uomo, la calcolosi disegna la storia dell'uomo. Nei primi, finché c'erano le malattie infettive, finché c'era uno stile di vita con poco nutrimento nella popolazione o quando c'erano le guerre durante il periodo bellico, le coliche erano sconosciute, i calcoli erano sconosciuti al rene. Si è visto che lo stile di vita, come lei giustamente diceva, la dieta, per esempio, si è visto che stanno aumentando le calcolosi negli ultimi tempi, perché la terra sta riscaldando e quindi l'uomo si disidrata. Disidratandosi l'uomo porta alla formazione di questi calcoli. Prima i calcoli erano calcoli vescicali che venivano dall'infezione, dagli stati infettivi nei primi del Novecento. Quindi possiamo dire una malattia legata al benessere, al malessere che la società del benessere ci porta e anche a questo riscaldamento della terra. Esatto, sono molto aumentati. E un altro, dicevo, per il periodo bellico, per esempio le diete carne che sono sconosciute durante il periodo bellico facevano sì che in quel periodo non c'era la calcolosi renale o erano proprio casi sporadici. Adesso con il benessere, con la dieta ricca di carne, sta aumentando notevolmente. Anche nella regione europea, per esempio, ci sono regioni in cui, per esempio, la Germania ha un'alta incidenza di calcolosi renale perché mangiano molta carne. 800 24 0024. Allora, vorrei insieme al professore dare subito dei consigli per affrontare eventualmente la colica. Lei sa bene, professore, che quando la pancia fa male, per calmare il dolore si prova un po' di tutto, a volte si peggiora anche la situazione, ma intanto sentiamo come si è comportato Alberto Pellai, il mio inquilino di questa casa. Non è un albergo, che anche lui si è trovato a fare i conti con una colica renale. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Io devo dire che l'ho vissuta quasi in diretta la colica renale di Alberto, perché lo monitoravamo dalla redazione per capire che cosa stava succedendo. Alberto? Ma in realtà, guarda, io proprio al termine di una settimana dove avevo lavorato molto, viaggiato molto in automobile e davvero mangiato male e bevuto pochissimo, ho cominciato nel fine settimana ad avvertire dei dolori proprio molto forti, non li avevo mai sentiti prima di uguale intensità, sì. che non mi permettevano di rimanere sdraiato, ero molto agitato, ho intuito che fosse una colica renale e ho provato a controllarli io subito con dei farmaci, quindi mi sono fatto un'iniezione di un antidolorifico e poi di un farmaco per bloccare proprio gli spasmi dell'uretere, come diceva prima il professore. A me è successo così, che effettivamente questa prima colica si è placata. Io ho continuato ad avere un fastidio per parecchi giorni, c'è stata una seconda colica da lì a circa 10 giorni. Sono poi andato in pronto soccorso per verificare se vedevano con un'ecografia il mio calcolo, ma come succede sempre i medici non hanno trovato niente, in realtà il calcolo c'era. E sai cosa ho fatto io? Quando ho avuto un terzo episodio, sentivo proprio la colica che ripartiva, io ho fatto questa cosa che anni e anni fa mi avevano insegnato a medicina, cioè ho bevuto 2 litri d'acqua nel giro di non più di un quarto d'ora, e in questo modo improvvisamente sono riuscito a eliminare un calcolo. Allora, non ho avuto Alberto, tu hai la cosa di essere medico? E quindi è un vantaggio svantaggio, perché poi si dice che i medici siano i peggiori pazienti, vero? Quindi meglio che voi stiate bene. Ma magari Alberto dice, quando me l'avevano insegnato in medicina, Alberto non è un medico ma non fa il nefrologo, è giusto bere tanto durante la colica, professore, o avete cambiato un po' idea? E abbiamo cambiato un po' idea, perché è abbastanza pericoloso, siccome i calcoli una volta erano molto grandi e quindi non rimanevano fermi dentro il rene, non c'era quel pericoloso evento che è l'idronefrosi, cioè il calcolo ostruisce la via d'uscita dell'urina e quindi il rene, se si beve troppo, non fa che dilatarsi, e abbiamo avuto anche casi in cui il rene è scoppiato proprio perché è stata talmente alta la quota di acqua che è stata introdotta, perché è corretto introdurre acqua perché durante la colica si può avere infezioni e quindi lavando in modo volgare il rene, cioè aumentando la diuresi, per esempio la birra è molto buona da prendere perché aumenta la diuresi. Bisogna prendere anche bere molta birra durante una colica, se si è sicuri però che la via d'uscita, cioè dopo aver fatto l'ecografia e la calcolosi è ancora dentro il rene o in un percorso che non impedisce totalmente la via escretrice, bere acqua è corretto, ma non bisogna farlo così. Quindi Alberto, allora adesso abbiamo ripreso il collegamento con il sottosegretario Ferruccio Fazio, eccoci, siamo di nuovo insieme. Sì, buongiorno. Grazie, lo so che per questi momenti sono caldi anche per lei, abbiamo anche in linea il professor Pregliasco, ma parliamo, avete attivato una task force così come l'avevate fatto per l'aviaria, quali sono i centri che ne fanno parte, sottosegretario? No, la task force è una task force del Ministero. Sì. Che coordino direttamente e poi ci appoggiamo naturalmente su altri centri che entreranno in funzione qualora dovessimo verificare dei casi che fino adesso non ci sono. Però nel caso i medicinali ci sono, le scorte sono sufficienti, vero? Sì, sono ampiamente sufficienti, abbiamo scorte sufficienti di Relenza, di Tamiflu, 40 milioni di dosi che corrispondono a un trattamento per 4 milioni di persone, quindi più che sufficiente. La raccomandazione comunque è di non recarsi in Messico, se non in casi di necessità, ma questo è valido anche per gli Stati Uniti? No, per adesso non abbiamo restrizioni negli Stati Uniti, abbiamo comunque una riunione programmata i giorni prossimi con i ministri degli altri paesi europei per verificare tra gli altri anche questo aspetto. Quindi da parte sua un messaggio di assoluto controllo, di tranquillità, sottosegretario? Sì, noi da tempo che ci prepariamo a queste cose, la situazione è assolutamente sotto controllo, anche se si verificasse qualche caso in Italia che, per, ripeto, adesso non si è verificato, non c'è assolutamente da preoccuparsi o da agitarsi, come non c'è nessun motivo di non mangiare carne di maiale anche insaccati, perché il virus si trasmette per via respiratoria e non per ingestione. Ringrazio il sottosegretario Fazio che è venuto a trovarci e ci ha rassicurato. Grazie, ci sentiremo nel caso prossimamente. Buon lavoro. Arrivederci. E invece, professor Pregliasco, chiediamo un po' di informazioni sulla BC, che è tornato nei giorni precedenti l'emergenza influenza dal Messico. Che cosa deve fare? Allora, il professor Pregliasco cade, magari ne parliamo poi la prossima, magari domani o nel corso della trasmissione. Intanto i messaggi li abbiamo dati. Professor Battaglia, un medico che sente queste informazioni, facciamo una piccola parentesi sui calcoli, c'è anche Alberto. Lei come le vive, dato che è medico, quindi ha più accesso anche a delle informazioni, sapendo di più può farsi magari più domande? Legate all'influenza, sì. Dice. Ma io credo che noi viviamo in un paese che dal punto di vista sanitario ha tutti gli strumenti per poter realmente essere da barriera per queste infezioni. E una volta, una delle domande è che se qualcuno torna, non bisogna neppure preoccuparsi di questo, perché noi abbiamo gli strumenti anche per chi torna, se eventualmente fosse stato a contatto con l'influenza, di essere tranquillo. Il sottosegretario l'ha detto, ma credo che tutta la popolazione sappia che le strutture sanitarie italiane, le strutture sanitarie europee sono all'avanguardia da questo punto di vista. Noi viviamo in un paese altamente civilizzato per la sanità. Allora, è tornato il professor Pregliasco. Professore, buongiorno. Adesso sta con noi un attimo. Assolutamente. Oggi veramente il telefono. Senta professore, io abbiamo anticipato con il sottosegretario Fazio che l'allarme in Italia non c'è, comunque la situazione è sotto controllo, ci sono i farmaci. Intanto, per farle un piccolo riassunto. Naturale, no, ecco. Mi pare giuste cose, proprio perché ormai c'è un piano nazionale, ci sono piani regionali e a livello locale. Si erano pensati con l'influenza aviaria, ma ovviamente adatti a fronteggiare anche una situazione come questa, che all'inizio dicevo è un qualcosa che ci deve preoccupare, ma è anche il segno di una capacità di risposta, di allerta a livello internazionale, che grazie alle esperienze di SARS e aviaria oggi ci permettono di sorvegliare su tutto il territorio mondiale, poi nelle varie nazioni, l'andamento di questa situazione, che potrebbe evolvere in un senso negativo, in quanto alcune caratteristiche del virus che lo accomunano a virus delle passate pandemie ci preoccupano, ma potrebbe essere anche una situazione che si riesce a eliminare o quantomeno senz'altro a contenere. Una domanda rapida: per chi è tornato dal Messico in tempi non sospetti, cioè praticamente anche il giorno precedente l'emergenza influenza suina, che cosa deve fare? Deve farsi controllare, deve andare dal medico? Se sta bene non è il caso che si preoccupi, oppure? Direi che la situazione non è poi il Messico in toto, ma la zona della città del Messico e San Luis, che è una contea a circa 500 chilometri dalla capitale. L'incubazione della malattia è di pochi giorni, al limite massimo una settimana, e quindi deve esserci un'evidenza di un contatto in luoghi a rischio e poi una influenza pesante, quella che raccontiamo, perché purtroppo l'influenza suina in questo caso è molto simile a quella alla vera influenza stagionale, quindi con febbre elevata, inizio brusco, dolori muscolari e articolari, segni respiratori, e allora in questo caso può essere utile un confronto col medico nei centri specializzati. Ma è importante rilanciare, secondo me, quello che sia una comunicazione serena per evitare quegli allarmismi che certo. avevano veramente creato problemi. Soprattutto la carne di maiale non crea, consumare carne di maiale non crea assolutamente alcun pericolo. Problema, proprio perché il virus è nato dal suino, ma ormai si è sganciato, e oltretutto non sembrerebbe nemmeno che questa variante di virus sia particolarmente particolarmente diffusa nei suini nemmeno nella zona del Messico, quindi non è un'epidemia di suini che si è trasmessa all'uomo, ma una variante del virus che ha preso questa strada facilitante. Allora, vi ricordo che se volete maggiori informazioni potete anche riascoltare gli aggiornamenti di Radio 24 e c'è il sito del Ministero della Salute che è ricco di informazioni e quindi vi rimando lì. Professore, nel caso ci sentiamo ancora, grazie, buona giornata. Arrivederci a tutti. Intanto io saluto Alberto. Alberto, mi raccomando, se dovesse capitarti di nuovo una colica, attenzione a tutta questa acqua che mi anneghi. Ho preso appunti, non lo farò più. Bravo, e mi raccomando, nel frattempo bevi adesso e noi tra poco daremo anche dei consigli di stile e di vita, quindi parleremo anche di dieta. Saluto Alberto Pellai, e abbiamo già in linea molti ascoltatori a cui chiedo di stare con noi. Andiamo a sentire i mercati, il meteo, il numero verde è attivo 824 0024. Ci sono anche degli esami che vanno fatti dopo la colica che ci permettono di vederci chiaro, quindi se avete fatto la colica restate con noi, degli esami molto semplici che vi spiegano la natura del vostro calcolo, soprattutto le cause che l'hanno generato e quindi permettono al medico di creare una terapia cucita su misura per voi. Siamo tornati insieme, arrivano tantissimi messaggi e molte telefonate. Una ad esempio di un SMS di Claudia. Claudia mi ha rubato un po' la domanda: cosa fare se si ha familiarità diffusa ma non sintomi? A cosa fare attenzione? Professor Battaglia. Ma innanzitutto bere molto è una regola generale, perché diluendo tutti i sali, i cristalli, i sali che ci sono dentro la nostra vescica durante la formazione dell'urina dal rene verso la vescica, noi evitiamo queste cristallizzazioni. Poi soprattutto durante la notte, perché noi abbiamo anche, il nostro corpo è talmente intelligente, durante la notte ha un ormone che è la DH che ci fa dormire senza avere la possibilità e senza avere lo stimolo di andare in bagno. Quindi si concentrano più le urine. Chi ha una familiarità probabilmente la sera deve bere un po' di più, e se si alza almeno una volta la notte è meglio. Per non fare concentrare le urine. Quindi professore, prima di andare a letto un bel bicchiere d'acqua. Un bel bicchiere o una bella camomilla, una bella tisana, sono le cose della nonna che fanno sempre bene, perché è un problema proprio di cercare di rendere più fluide, di non creare quelle concentrazioni di urina che possono essere la causa scatenante di un'aggregazione di cristalli che formano il calcolo. Quando diciamo bevete di più, cosa vuol dire? Quanto, almeno quanto bisogna bere? Ma nei nostri climi non meno di 1,5 litri, è la regola generale, durante il giorno non meno di 1,5 litri. È importante bere a pasto fuori da pasto? L'importante no. È raggiungere questa L'importante quota. È raggiungere questo target. Bene. Poi quando lo beviamo, per esempio ai pasti, bere troppo, per esempio, diluiamo i nostri succhi gastrici, quindi digeriamo con molta più lentezza. Non è molto intelligente. Quindi bere ai pasti, meglio bere tra i pasti. Andiamo a Lucca, nella provincia di Lucca ci aspetta Luigi. Buongiorno, 824 0024. Buongiorno Luigi. Buongiorno, sto seguendo con molto interesse quello che proponete, gli argomenti che proponete. Io ho seguito all'inizio tutto il discorso sui reni, estremamente interessante, tra i quali mi pare di aver capito che il rene, per l'appunto, mantiene l'equilibrio salino nel corpo. Sì. E allora la domanda sarebbe questa: ma che relazione c'è tra il rene e la pressione sanguigna? Luigi, lei invita a nozze il professor Battaglia, perché questo è un argomento molto interessante su cui i nefrologi fanno grande divulgazione, grande informazione, perché c'è una relazione molto stretta, ma il professor Battaglia sicuramente è l'esperto più indicato per spiegargliela. Il rene ha un organo molto intelligente che ha la secrezione di un ormone che si chiama angiotensina, che i nostri progenitori, gli antichi, usavano proprio per alzare la pressione. Quando sì. avevano bisogno di alzare la pressione, avevano questa secrezione di angiotensina. Oggi questo ormone viene secreto se noi introduciamo troppo sale. Sì. Per esempio, di diete ricche di sodio sono controproducenti, perché alzano la pressione. Ritenendo liquidi, aumentano il volume dell'acqua che c'è nel nostro corpo, quindi quindi questo 80% diventa 85-90%, e quindi si allargano i nostri vasi. Allargandosi i nostri vasi danno lo stimolo per alzare la pressione. Certo. Quindi è una relazione molto stretta ed è anche la ragione per cui l'ipertensione va controllata, per evitare poi danni. Danni cardiovascolari, che è la maggiore causa di morte e di morbilità in tutto il territorio dei paesi industrializzati. E quindi non sono fattori da sottovalutare. Andiamo un attimo da Luciana. Luciana, buongiorno, ci chiama da Padova. Buongiorno. Buongiorno, ci racconti Luciana. Lei ha provato una colica? No, meno non male. Parlo di coliche, io meno volevo male. Dire, no, fortunatamente mai, però volevo chiedere appunto al professore, e io bevo 3 litri di acqua al giorno, però li bevo quasi tutti la sera, perché durante il giorno devo uscire, devo andare, mi procurerebbero problemi facilmente immaginabili, per cui sono sempre alla ricerca di toilette. Sì. E il problema invece è che... dopo che io ho bevuto dell'acqua, cioè l'acqua la sera dopo cena, praticamente mi metto lì la carafa e bevo acqua, sì, fino all'una, alle 2, vado a letto molto tardi. Sì. Però diciamo che dopo un bicchiere o 2 di acqua io sto benissimo. Mentre prima ero quasi in coma, perché dopo cena eccetera io mangio una volta al giorno, per cui la sì, sera... Sì, quindi lei beve e poi quando arriva il sento problema? Sento una sensazione, sì, di benessere anche dal punto di vista proprio cerebrale. Sì. Volevo sapere che fenomeno, a che cosa è legato questo, oppure... Professor Battaglia, Luciana ci dice: bevo tanto, ma bevo solo in una parte della giornata, alla sera, e bevendo rifiorisce un po', come la piantina nel vaso che non ha ricevuto l'acqua, la dose di acqua quotidiana, che quando gliela ridiamo si riprende. Ma quando si fanno domande di questo tipo, possono essere due le risposte. Una risposta scientifica che ci dice che stando a digiuno durante il giorno, sicuramente il digiuno provoca un certo grado di acidosi. L'acidosi è controproducente per il nostro corpo e anche per la nostra mente. Ragioniamo meno brillantemente. Mentre se noi riuscissimo anche a bere qualcosa e a mangiare qualcosa durante il giorno, sicuramente non porteremo il nostro organismo all'acidosi. Quindi il consiglio da dare alla nostra ascoltatrice: diluisca, si può portare, no, perché il problema è molte persone non bevono durante il giorno, specie se fanno un lavoro che li porta fuori casa, in macchina, sono fuori, perché lei sa bene che se io bevo molto poi magari ho bisogno di andare a fare pipì e quindi devo cercare il bar dove prendere il caffè per chiedere scusi la toilette e via così, però bevendo a piccole quantità costanti non è che abbiamo subito bisogno. Ma posso dare bisogno. Un suggerimento? Una mattina 10 minuti di sveglia prima, sì, e bere 3 bicchieri di acqua prima di andare a colazione, prima di leggere il giornale, prima di accendere la televisione, prima che noi usciamo, cioè i 3/4 d'ora, un'ora dopo, noi abbiamo già smaltito questi 3 bicchieri di acqua e abbiamo fatto talmente bene ai nostri reni, al nostro organismo, che ci sentiamo veramente lucidi per affrontare tutto il giorno. Questo mi piace, ce ne darà altri nel corso della trasmissione. Intanto ci colleghiamo con Torino, in linea con noi abbiamo il dottor Martino Marangella, che è direttore della divisione di nefrologia e dialisi all'ospedale Mauriziano di Torino. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, dottore, noi abbiamo avuto ci siamo fatti una colica, dolori pazzeschi, andiamo dal medico e il medico ci farà fare degli esami, immagino. Ma noi con lei vorremmo parlare anche degli esami che soprattutto permettono al medico, e quindi ci guadagniamo anche noi, di sapere le cause che hanno prodotto questo calcolo e anche la natura dei calcoli, perché ahimè, per complicare la situazione, i calcoli naturalmente non sono tutti uguali, sennò sarebbe troppo semplice. Dottor Marangella, ci dia le indicazioni che a noi possono essere utili per capire nel caso come comportarci e soprattutto che cosa avete voi medici a disposizione per farci stare meglio? Allora, alcune raccomandazioni. Nel caso di coliche renali io sconsiglio di non procedere con un minimo di esami, perché un calcolo in transito lungo le vie urinarie può essere un fattore di danno anche funzionale per il rene. Sì. Quindi senz'altro procedere con delle indagini di diagnostica per immagini, per esempio un'ecografia renale, e se non basta una radiografia. Sì. L'ecografia renale ci dice solo se ci sono calcoli o meno, o se c'è una ostruzione, cioè se c'è un po' di dilatazione del rene o meno. Non ci dà nessuna informazione sulla natura dei calcoli renali. Queste informazioni possono venire in maniera preliminare da una radiografia diretta, ma questo solo se c'è del calcio all'interno del calcolo. Se no non li vedono. Altrimenti non vengono rilevati dai raggi. Altrimenti la natura della calcolosi la si deduce dall'analisi del calcolo. Quindi l'altra raccomandazione è non buttare via i calcoli eventualmente espulsi, ma farli analizzare. Sulla base di questo noi possiamo impostare delle indagini per capire perché uno ha questa propensione a questa. Eccoci, siamo tornati. Dottor Marangella, allora, colica, si va dal medico, ecografia o radiografia, però se questo non basta si procede per capire un pochino, per andare a fondo del problema. Quali sono gli esami e che cosa vedete? Allora, l'esame preliminare che si può fare è un esame delle urine. Sì. Si fa su una banale raccolta, soprattutto sulle urine, meglio se sulle urine del mattino che sono più concentrate. Sì. Lì un laboratorista esperto può cogliere la presenza di cristalli e sulla base dei cristalli dedurre qual è la natura della calcolosi, se non si avrà avuto la possibilità di fare un esame del calcolo. A questo, nelle calcolosi un po' più severe, cioè in quelle che tendono a recidivare, si può associare una serie di indagini biochimiche e funzionali renali un po' più complesse che si fanno meglio su raccolte di urine di 24 ore. Quindi questi esami, non le chiedo, dottore, di entrare nel merito, no, perché poi diventa troppo, ma il messaggio che volevo dare è: chi ha delle, chiedo conferma al professor Battaglia, queste recidive nel formare calcoli, ci sono degli esami che permettono di capire esattamente la natura e quindi di cucire la terapia adatta per loro, quindi è questo. Già sappiamo che esistono e sono degli esami che si fanno sulle urine delle 24 ore? Sì, dottor è meglio di sì. Perché quel tipo di raccolta urinaria ci dà anche informazioni su come il paziente, su qual è la dieta del paziente, quante proteine introduce, quanto calcio, e questo può essere importante perché poi può avere delle conseguenze sulla propensione a fare i calcoli. Ecco, abbiamo detto ai nostri ascoltatori che volevamo portarli nel 50% delle persone che dopo un episodio di calcolosi non ce l'hanno più, questo può essere anche un'indicazione per andare in quella percentuale buona, cioè sapere che ci sono degli esami che permettono di veramente fare la carta d'identità del calcolo e quindi da lì permettere al medico di intervenire. Dottor Marangella, la ringrazio, la saluto, buona giornata. A lei, altrettanto, buongiorno. Professor Battaglia, molti messaggi riguardano la renella. Alcuni ascoltatori ci stanno chiedendo, ma se io faccio la renella sono a rischio di calcoli? Professore. Ma vengono tanti in ospedali con queste ecografie in cui c'è scritto presenza di renella nel rene. La maggior parte delle volte non è renella, perché la renella non esiste, ma sono le strutture normali del rene che sono iperriflettenti all'ecografia, che danno l'impressione di avere dei microcalcoli. Sì. La microcalcolosi non esiste. Quindi ci togliete anche la renella, sì, che ci sembrava più simpatica del calcolo, comunque non esiste. No, ma così facciamo bella figura ai medici, perché poi l'ecografia dopo non si trova più la renella. E quindi siete un complotto. Esatto, va esatto, bene, andiamo. No. Ma io volevo invece sottolineare una cosa molto interessante e fondamentale che ha detto il dottore Marangella. Sì. Non sottovalutare i calcoli, perché ci sono persone che fanno la colica, eliminano, perché sotto i 5 mm il calcolo la maggior parte delle volte va via con una semplice colica notturna. Sì. Invece c'è la possibilità che questi calcoli possano danneggiare il rene, e nel 50% danneggiano il rene. E voi pensate che in questo 50% che si danneggiano il rene, tecnicamente danno una nefropatia interstiziale, danno una malattia renale, il 10% finisce in dialisi di queste persone. Ecco, quindi bisogna, mi raccomando, quando c'è un calcolo, andare dallo specialista. Andiamo a Sassari, c'è Raffaele che ci aspetta. Raffaele. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno, che succede? Ci racconti? Sì, la sentiamo Raffaele, parli, perché così sentiamo che cosa vuole chiedere. Raffaele non ci parla perché forse è caduta la linea o si sente male. Andiamo a Cuneo, nella provincia di Cuneo c'è Pierino, buongiorno. Buongiorno signora Nicoletta. Dunque, io ho un calcolo al rene destro già da un po' di anni che l'ho scoperto, 12 mm l'ultima ecografia, sì, è radioopaco, quindi probabilmente contiene calcio. Sì. E mi è stato proposto così eventualmente di eliminarlo attraverso la rottura con il dito trittore, sì, però da alcuni esami che ho fatto sulle vie di fuga, cioè sul... sull'uretere, c'è un restringimento che così potrebbe creare problemi a smaltire i frammenti. Allora, e per cui sono un po' preoccupato. Un po' preoccupato. Nel frattempo, visto che non ho mai fatto una colica, vorrei sapere se il professore ha parlato che anche così aspettare può essere pericoloso per il rene. Allora, allora Pierino, lei capita proprio appena cade a fagiolo, si può dire, perché in linea con noi abbiamo il dottor Aldo Massimo Bocciardi, direttore della struttura complessa di urologia dell'ospedale Niguarda di Milano, che abbiamo proprio chiamato per portarci con lui in sala operatoria per capire quali sono le possibilità che si presentano oggi per le persone che hanno i calcoli, recidivano e comunque devono venire a capo del problema. Dottor Bocciardi, lei ha sentito la... Buongiorno. Buongiorno e grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, mi dica lei. Attualmente l'indicazione di elezione per il trattamento dei calcoli del bacinetto è la litotrissia extracorporea, quindi quello che è stato prospettato al signore è assolutamente corretto. Che sono, mi scusi, le onde d'urto? Le onde d'urto, sì. Esattamente, le onde d'urto. Quindi poi è chiaro che di volta, da caso a caso, c'è l'ipotesi di poter applicare dei presidi interni per evitare coliche e favorire la fuoriuscita dei frammenti, però attualmente la litotrissia è il trattamento di elezione del 90% della calcolosi. Si prova, questo è il primo trattamento. Primo trattamento, perché è quello meno invasivo, non necessita di anestesia e quindi è assolutamente ragionevole. Certo. È evidente che a fronte di un trattamento extracorporeo in caso di insuccesso si può passare a terapie diverse che sono un po' più invasive, necessitano di un'anestesia e sono... per quanto riguarda i calcoli del bacinetto, il trattamento percutaneo di nefrolitotomia percutanea, il nome è difficile. Ma si tratta di inserire un tubo di servizio dal fianco all'interno del rene e poi, utilizzando laser o fonti di energia di questo tipo, frantumare il calcolo e estrarre i pezzi direttamente. Oppure, se il calcolo che non si riesce a trattare è nell'uretere, si fa un'ureterorenoscopia, quindi si risale per vie naturali uretra, vescica e uretere fino a trovare il calcolo e frantumarlo con il laser. Quindi ormai le indicazioni sono chiare, devo dire che la chirurgia tradizionale è riservata solamente in casi molto selezionati, vanno di prima battuta le onde d'urto e se no ci sono queste due tecniche endoscopiche che possono permettere a chi ne soffre di venire a capo del problema. Intanto la saluto, dottor Bocciardi, la ringrazio per essere stati con noi. Grazie, arrivederci. Professor Battaglia, noi stiamo sfiorando, ma se lei mi dice rapidamente un'indicazione sul limone, ma proprio un secondo, possiamo prenderci spremute di limone per allontanare la calcolosi? Mi dica solo sì o no. Sì, perché i cristalli si aggregano perché mancano i citrati. Noi bevendo limonate o mangiando limone ripristiniamo quello che non fa formare i calcoli. Quindi questo è un altro prezioso consiglio. Intanto vi saluto, ringrazio il professor Battaglia di essere stato con noi. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.